tutte le guerre che sono a fare. Sono cristiani a Wall Street che decidono dove sono a fare le guerre criminali. Sono cristiani in Europa che decidono lì cavolo culo all'americane. Sono cristiani a Wall Street che decidono dove sono a fare le guerre criminali. Sono cristiani